Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Siamo all'unico appuntamento di questa settimana insieme all'Associazione Difesa Consumatori di Mestre, perché ovviamente giovedì è giorno di Natale, quindi non ci saremo, ma di Natale parliamo, uno sguardo anche all'anno nuovo, a quello che succederà. Bentrovato Carlo Garofolini, presidente Adico. Amico, e un saluto a tutti gli ascoltatori. Ben ritrovato, con te non ci sentiamo praticamente dall'estate. Parliamo appunto di Natale. Ormai un paio di giorni dalla festa, le tendenze sappiamo ormai da anni essere al risparmio, al low cost. Voi avete fatto un'indagine che riguarda proprio il territorio padovano. Sì, la premessa è giusta rispetto a quello che un po' sarà il Natale all'insegna di tutti, dei padovani come dei veneziani e di tutti quelli che insomma si trovano in una situazione di difficoltà, come è risultato dall'indagine, proprio dove l'Adico ha monitorato circa 300 iscritti e oggi abbiamo il dato che 7 persone su 10, solamente 7 persone su 10 e faranno acquisti di scarpe e abbigliamento in saldo, visto che si parla di saldi e che questi quest'anno sono stati anticipati al 3 gennaio. Però il dato più interessante sono anche le cifre che le persone quest'anno hanno a disposizione, perché 4 persone su 5 hanno dichiarato che passeranno il Natale a casa tra le mura domestiche e la famiglia. La cifra a disposizione è per 14-17 euro nel caso di un menù completo a casa come cifra minima, rispetto ai 40 che si potrebbe spendere al ristorante, e per 24-28 euro nel caso di un menù completo di pesce rispetto alla media di 60 euro in ristorante. Parliamo di cifre minime. Dunque risparmi ulteriori, ovviamente anche la possibilità magari di stare insieme. Voi avete indagato, come fate del resto ogni anno, anche i negozi, i supermercati, dove converrebbe di più anche in queste ultime ore fare gli ultimissimi acquisti? Beh certo, considerando che 4 famiglie su 5 hanno dichiarato di voler passare quindi il Natale a casa, abbiamo ipotizzato una spesa standard, un carrello della spesa diciamo così, e abbiamo monitorato tramite anche il sito risparmiosuper.it, di cui collaboriamo da molti anni, quello che possono essere delle catene di vendita più convenienti rispetto ad altre, e certamente è uscito il Billa come hard discount, che sappiamo che gli hard discount vanno un po' contro tendenza rispetto a quelli che sono i supermercati tradizionali, e è uscito l'Auchan rispetto a tante altre tipologie più note tra gli ipermercati che i consumatori normalmente prediligono accedere. E una volta fatto il pranzo, il cenone natalizio, si pensa appunto al Capodanno, e già accennavi prima, notizia dei giorni scorsi, che la Regione Veneto, anche con l'autorizzazione delle regioni confinanti, ha deciso di anticipare l'avvio dei saldi invernali a sabato 3 di gennaio. I negozianti credo siano contenti, anche perché sembra stiano andando abbastanza bene le vendite di questo periodo prenatalizio. Le intenzioni sono proprio di tentare di fare l'affare, soprattutto nel settore abbigliamento da parte degli acquirenti, e anche qui una iniziativa che torna con successo è quella della foto. Fotografa il tuo acquisto, questa è una cosa da fare da qui fino al 2 gennaio, giusto? Certo, noi per il terzo anno lanciamo la campagna proprio, come detto, denominata Fotografa il tuo acquisto, dove invitiamo proprio i consumatori in questi giorni a fotografare l'articolo e il prezzo esposto, in modo che poi all'avvio dei saldi potranno verificare che lo sconto è reale rispetto al prezzo che precedeva l'avvio dei saldi, e soprattutto anche per evitare di incappare in quelle fregature note, come capitano mai ogni anno, che qualcuno poi si rivolge mancabilmente all'Adico denunciando come magari è stata rifilata, gli sono stati rifilati dei capi che non sono di stagione ma sono dei avanzi di magazzino. Quindi verificate adesso se vedete un capo che vi piace, magari non riuscite a comprare adesso perché non avete la disponibilità o adesso perché ha un prezzo ancora abbastanza alto, diciamo natalizio, tenetelo d'occhio e lo seguite appunto dal 3 gennaio in vetrina, vedrete come lo stesso capo sarà messo in vendita. E ricordiamo ancora una volta, Carlo, i prezzi devono essere ben chiari, cioè ci dovrà essere scritto il prezzo prima e il prezzo scontato. Certo, ma proprio per evitare che, come qualcuno sostiene, che alla vigilia dei saldi il prezzo viene aumentato per poi essere scontato, noi diciamo proprio agite adesso e preparatevi. Oltre a questo, ricordiamo sempre come il capo rientra nei 2 anni della garanzia qualora abbia dei difetti, quindi può essere sostituita nel caso che presenta dei vizi o dei difetti nei giorni successivi all'acquisto. E ricordiamoci come bisogna diffidare da quelli che sono i sconti superiori al 50-60% per evitare magari appunto di non acquistare robe di stagione rispetto a degli avanzi di magazzino. Ricordiamoci come sarebbe opportuno proporre, determinarci un importo in modo da non sforare e poi trovarsi in crisi a fine mese per mancanza di soldi, perché anche quello di mettere un fare su un preventivo di spesa è molto utile, e che forme di pagamento come bancomat, carte di credito devono essere per forza del commerciante accettate, anche se qualcuno a volte sta oggi in naso. Questo dunque per i saldi dal 3 gennaio in Veneto, ma intanto godiamoci questi ultimi giorni prenatalizi anche con i consigli che ci hai dato in apertura. Auguriamo a te, alla tua famiglia, a tutta l'Associazione Difesa Consumatori un buon Natale. Ci ritroviamo qui puntualmente fra 7 giorni nell'ultimo appuntamento del 2014. Grazie a te, amico, e io colgo l'occasione per fare gli auguri a tutta la redazione e agli ascoltatori. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.